visti da fuori. E a proposito degli effetti che ha ciò che succede in qualsiasi area remota del pianeta su tutto il resto, in prima pagina ovunque il Sole 24 Ore non fa eccezione. Argentina, bond in default, si tratta per evitare il crack. Argentina che torna sotto i riflettori, e diamo il benvenuto naturalmente alla nostra corrispondente straniera che vive in Italia, si chiama Elena Llorente Ruiz. Hola Elena. Hola, buongiorno. Corrispondente per Pagina 12, l'ho detto bene, più o meno, sì, insomma, si sente un accento marcatissimo, non è sdoganabile, e non intendo con te ovviamente entrare nei dettagli tecnici di quanto sta succedendo, perché nel corso della trasmissione Cuore e Denari, in onda qui su Radio 24 alle 11, tra l'altro, vedremo che effetto ha tutto questo anche per i consumatori, quali sono i rischi. Ma in questi giorni a Buenos Aires che aria si respira nelle strade tra la cittadinanza? Beh, devo dire che l'angoscia ha cominciato a prendere i cuori della gente. Io ho parlato con alcuni tramite telefono, internet, eccetera, e tutti sono molto preoccupati, perché in realtà il panorama ancora non è molto chiaro. Oggi esattamente c'è un'altra riunione tra le due parti a New York, e allora si aspettano delle novità che possono essere positive, però la gente lo vive male, perché in realtà l'esperienza del 2001 è stata tremenda, e la gente pensava che finalmente le cose potevano funzionare e la cosa poteva andare avanti senza maggiori problemi, invece si trovano ancora a affrontare questo problema che non si sa, come dicevo, non si sa ancora quali sono le conseguenze, quali saranno le conseguenze. È chiaro, si rivive l'incubo di 13 anni fa nella percezione. E tu cosa ricordi di 13 anni fa? Beh, io devo dire che vivevo a New York a quell'epoca e seguivo praticamente tutti questi argomenti, soprattutto legati al debito estero dei paesi dell'America Latina, perché come giornalista sempre ho lavorato per agenzie stampa facendo il servizio in spagnolo, no? Per cui me ne occupavo parecchio di questi problemi. E devo dire una cosa, come una... Tu lavoravi per la CNN? In quel periodo lavoravo per l'agenzia tedesca, la Deutsche Presse Agentur. E prima ho lavorato per la France Presse e a Roma, e dopo ho lavorato per CNN qua e in Italia. Comunque in quel periodo lavoravo per questa Deutsche Presse Agentur all'ONU, e come dicevo me ne occupavo di queste cose, e devo dire che per esempio sul debito estero argentino si parlava, e sul default, possibile default del debito estero, si parlava moltissimo tempo prima di che succedesse. Invece le banche continuavano a vendere questi bond, tango bond cosiddetti, argentini, continuavano a vendere e dicendole ai poveri investitori che erano bond che davano un sacco di interessi, chiaro, chiarissimo. È un grande investimento. Ora, perché naturalmente per quel che riguarda oggi ci si augura che abbiano ragione coloro che fanno i distinguo, dicono un default selettivo diverso da quello generale, sì. Dunque vuol dire che il paese sì, forse onora gli impegni su certi titoli, ma non tutti, ma è molto diverso da quello che è accaduto nel 2001. Ma del 2001 la gente ricorda scene tremende di miseria. Tremende, guarda, io personalmente ho visto, perché sono stata poco dopo in Argentina, ho visto delle scene che non avevo mai visto in vita mia in quel paese, dove ho vissuto per ben 30 anni quasi, o 25-26 anni. E in realtà la gente di classe, anche classe media devo dire, che aspettavano durante la notte fino alle 3-4 di notte che i ristoranti portassero fuori i contenitori con la spazzatura per tirare fuori il mangiare. Era una cosa mai vista, guarda, una cosa tremenda per chi ha vissuto in quel paese, che non aveva mai visto prima una cosa del genere. Per cui scene come queste Speriamo che non è chiaro che rimangono nella memoria collettiva. Sì. Speriamo che sia scongiurato questo tipo di situazione, stando agli elementi che si discutono in questi giorni. Non dovremmo trovarci al 2001, quando il governo argentino appunto non era più in grado di onorare titoli per 132 miliardi, ma come dicevo gli sviluppi saranno seguiti anche da Radio 24 alle 11 in Cuore Denari. Tornando alla tua esperienza di corrispondente che vive in Italia, innanzitutto da quanti anni sei qui? In Italia ho vissuto, diciamo, 25 anni più o meno, 25 anni, sì. E tra, diciamo, all'inizio sono arrivata nell'82 e poi sono partita dagli Stati Uniti e sono rientrata, per cui c'ho alcuni anni. Perché sei rientrata? Sono rientrata perché è stato praticamente 2 anni dopo le Torri Gemelle, ne siamo stati lì, vivevamo lì, io lavoravo all'ONU, come ti dicevo, arrivavo nel momento dell'attentato, stavo arrivando nel treno a New York, è stato molto molto traumatizzante, devo dire traumatico il fatto di vivere una cosa del genere. Anche, cioè tutte le misure instaurate in seguito? Dopo, sì, in seguito, sì, era sai, io... Era asfissiante. Era tremendo, io ho vissuto la dittatura militare in Argentina, per cui non volevo ritrovarmi in una cosa del genere uguale. Io sono arrivata in Italia e mi sono sentita così libera che potevo finalmente vivere in libertà, che non volevo ripetere una cosa del genere, per cui siamo rientrati dopo 2 anni. Quindi hai avuto l'esperienza anche dell'iscrizione a scuola dei tuoi figli negli Stati Uniti, oltre che la tua esperienza scolastica in Argentina e poi l'esperienza scolastica in Italia, come la valuti nel complesso? L'istruzione italiana. Se posso fare il confronto, devo dire, io la scuola italiana la trovo favolosa dal punto di vista che proporziona, dà ai ragazzi una cultura generale importantissima per poter dopo aprirsi una strada nella vita. È vero che ci sono alcune deficienze, per esempio dal punto di vista della matematica o delle scienze. Mio figlio per esempio ha fatto liceo scientifico e aveva un sacco di tempo che doveva dedicare allo studio del latino e mi sembrava un po' troppo, devo dire. Il latino va bene, però fino a un certo punto, perché oggi come oggi è più importante studiare magari altre lingue per poter comunicare. Su questo dovremmo aprire una puntata intera, non ci addentriamo. Esatto. Ora, però la tua valutazione da persona che ha vissuto in diversi sistemi del mondo è più che positiva. Ma quando andavo a scuola io ci facevano studiare dell'Argentina. Argentina, confine a nord con la Bolivia, il Paraguay, ricordo ci facevano recitare, poi c'era chi confondeva il Paraguay con l'Uruguay, a nord-est c'è il Brasile e Uruguay, a est l'Oceano Atlantico, ma anche voi dovevate studiare i confini italiani? Senti, noi studiavamo sì, perché studiavamo Europa moltissimo in Argentina, si studia Europa come una cosa fondamentale, all'epoca che io sono andata a scuola, perché dopo le cose sono molto cambiate, però a quel momento si studiava più Europa che gli Stati Uniti, sicuramente, l'Europa era il centro della cultura. Dell'Italia cosa studiavate, per curiosità? Ma guarda, dell'Italia, a parte studiare in genere la geografia europea, ovviamente si studiava l'arte era la parte fondamentale, l'arte italiana, no? In percentuale la popolazione argentina, da quanti italiani o persone di origine italiana, senza contare i passaporti, ma l'origine è costituita? Sì, l'origine più del 44%. I legami sono dunque inevitabilmente tanti e indissolubili. No, e poi la cultura argentina ha un'impronta italiana tremenda. Siamo italiani e parliamo spagnolo, in realtà. Grazie Elena, è stato decisamente interessante incontrarti. Elena Llorente Ruiz, l'avete sentito, la corrispondente in Italia di Pagina 12 e dunque la corrispondente argentina. Andremo a incontrare qualcun altro lunedì mattina alle 8:15 nel corso della nostra Visti da Fuori.